Giorgio, il BV131 arrivi a fondo scala, tutti i cantieri rotti. I BV131 sono pochi watt, sono 200 watt, dai, in banda laterale, e un'ottantina in AM ne dà 100, se li dà, dipende dalla corrente che v'è. Però arrivare come quello proprio a fondo scala in banda laterale dalla Germania, cazzo, quello stava usando un sacco di watt. No, guarda che sia stato anche due. Guarda che è nata lì, basta che ci suga, basta che, come si dice, basta che appena appena sia anche 200 watt, se è favorevole, arriva a fondo scala. Io prima mi divertivo così, arrivavo più forte di tutti, perché a chi attaccava di brutto. E c'è anche la propagazione che contribuisce, non è solo il watt, no? Giustamente anche la propagazione. Io non ne avevo watt e l'ho chiamato in inglese e l'ho mandato via, ma non avevo watt, ero con questo baracchino, ero, e mi ha sentito ugualmente, se ne è andato. Emanuele, libero sì stanotte. Che cazzo, dove vuoi poco è Natali? So, si è smontato a Ridre. Ah, un'ora in ritardo è smontato. No, volevo sapere, lo sapevo che dovevo smontare alle 2. Adesso domani mattina alle 5 e mezza, fino alle 2 e mezza, domani. Alle 2 e mezza di notte, no, di mattina, di giorno. 5 e mezza del mattino fino alle 2 e mezza del pomeriggio. Sono quelli gli orari. Io non vedo i padri, Emanuele, pari così, ma sono... è stancante forte quel lavoro. Ci vuole a fare quel lavoro lì, Natale, non perché sto lavorando io, ci vogliono le palle e devi avere la testa a posto, perché uno non ci rimane lì. La testa sta abbassando il capo. Ah, è un problema di mamma al canto. Il lavoro è quello lì, io sono abituato perché l'ho sempre fatto da ragazzo. Io ho 23 anni quando ho iniziato a fare quel lavoro lì. E ne ho passato di cotte e di crude, e quindi lo so, ma così è troppo. Il lavoro è quello lì. Piuttosto di stare a casa, non fa nulla, almeno qualcosa entra al mese. Invece se stai a casa non c'entra nulla. Cazzo, sta uscendo? Ehi, ha perfettato, sì, ha passato un po'. Ma è tutto strappato o esce? Com'è l'acqua? Fa un po' schifo o esce bene? O fa schifo? No, va bene la modulazione, io ti ascolto bene, pure non so Natale come ti ascolto. Strappa. Perché... Perché prima stava passava ripetendo? Scappagnappa. Adesso sta... Vedo che sta funzionando, sta. Eppure prima non andava. E vuol dire che non c'era con questo. La reticchia. Hola, hola. Ma comunque c'è bene la modulazione, Artù. È di lusso. Di lusso. Modulazione di lusso. Ciao, questo è il superstar. Esce bene, cos'è, vuole parlare o sempre da tavolo? No, sì, microfono a tavolo, però prima collegato come collegato, prima alternata. Oh, non c'è abbastanza cosa, come si dice. Adesso sta uscendo con meno watt. Io se riesco a trovare un MB+4 per adattare a questo qui, vediamo un po' com'è la modulazione. Cazzo, una bomba questo microfono. Lo so, va bene, ma è microfono. Non ho idea cosa sia, ma spinge forte. Anche l'MB+5 va bene. So che l'MB+5 c'ha il coso della... due regolazioni, adesso non me lo ricordo bene, cioè quella dell'amplificazione e quella della, non me lo ricordo bene, due pomelli aveva. Esce bene, escono bene quelli. Io preferisco più le MB+4, sinceramente. Le MB+5 uscivano bene sulla Galaxy. Ah, già esce bene comunque. Quale stai usando adesso? Il Superstar è questo. Superstar è quello veicolare, giusto? Eia, esce bene anche questo. Ah no, esce bene, sì. Ecco qua, ho commutato. Sì, va benissimo. Questa è, io preferisco più quella. Ma anche l'altra è bella, solo che l'altra non è più, più amplificata. Questa qua è la 48. La 48 è quello verde. E quello? Amplificato là è quello. No, no, è originale la casa. Escono bene quelli. Noto che qua, secondo il mio parere, devo fare una modifica. Secondo il mio parere, provare a metterli l'alimentatore separato. Per vedere se. Perché magari tutti collegati insieme potrebbe dare dei problemi. Cosa mi maestra, no, ma non vedendo nessun problema, non vedendo. Ma se sia qualche spezzone messo male. Cos'è la tariffa? Qualche spezzone messo male deve essere. Ce l'ho dove c'è quel disco? Sì, qualche commutatore. No, negativo, sicuramente. Ascolti che se metto il Superstar a parte, funziona bene. Ora provo a separarlo, a vedere cosa succede. Voglio fare la prova. Yeah, sei qua, Pupi, su che andiamo? Ah tu, sì sì, Atari. Hola, come si sente ora? È un'alternata forte. Poco fa facendo un'altra operazione, non me lo faceva. A chi tocchi, gas, a chi tocca tu, gas? E riscendiva, ma io non lo so. Cazzo, io ti metto la multa a te qualche giorno. Natali, io ti metto la multa ancora qualche giorno. E allora, cazzo, non devi ducare, andando a vedere la carità. No, era la prova che stavo facendo, era. Hola. Sì, ma cosa fa di così? E prima non lo faceva e andava anche meglio, andava, perché qualche spezzone deve essere, lo spezzone per quello va fatto col 213. No, non è giusto, ce l'ho 1213, ce l'ho pure volendo, ma non è giusto il problema. Occhio mio, e quello è a valvole. C'è l'alimentatore di vicino. No, proprio chi c'ha valvole funziona bene. Quella valvola è meglio che funziona, te lo garantisco. Tu, o c'hai l'alimentatore vicino e ti fa alternata, anche se c'hai il lineare vicino all'alimentatore, non devi avere niente vicino. Certo, vorremmo provare a allontanarlo proprio quello. Che strana la storia. E anche da lì che ti fa l'alternata, se c'è l'alimentatore vicino al lineare ti fa quel problema lì. E poi magari sarà anche gli spezzoni. E gliel'ho detto, quegli spezzoni nel RG58 vanno sempre a farci fottere. È impossibile. Te lo dico già, perché gli spezzoni li ho fatti io e funzionano benissimo, non è chiuso, no. Questo si sente bene, sì, questo qua si sente bene, quello là non si sente bene, capito? Dov'è il problema? Adesso vediamo. Io ho spezzoni fatti da me, ma fatti bene veramente, però sono i PL che non servono e non avvitano bene. Capito. Grazie. No, no, che questi ti abitano bene. Abitano benissimo, abitano. Li ho fatti, li ho fatti la regolata. Però se riesco questo, provo a buttarlo per vedere, ma non è che cambierà cosa, no? Se no voglio fare un'altra cosa, voglio fare. Voglio provare ad alimentarlo da solo. Dovete capire perché mi sta facendo così. Ma con quell'apparecchio solo, mio. Non capisco perché. Magari non ce la fa. Se ne va in assorbimento e non ce la fa. È impossibile perché gli ho cambiato, gli ho messo l'alimentatore a parte. Ed è peggio che mai. Ma sai, sono io. Ma che cacca male a tutti, ma... Ora. Lascia così che va bene. Quello là non me lo fa andare. Se me lo fa andare devo cambiare tutto il sistema. Cioè, perché c'è qualcosa che non va. Qualcosa che non va. Brutto. Questo io sono poco fa che va funzionato bene. No? Ma tu Natale mi sa tutta l'errore. Cioè il gemello di quello là che è proprio disgraziato. Che non funziona bene, capito? Cioè quello buono non lo trovo più. Gemello, che rosmetro è? Un dettaggio 2003. Vai da fusare e compra i diodi rivelatori, due diodi rivelatori sono. E vedrà che funziona bene poi. Sicuramente sono quelli lì che non stanno facendo funzionare il rosmetro. Quelli trasparenti sono. Vediamo. Ne ho uno che funziona benissimo, funziona proprio bene. L'altro è uno schifo, diciamo. Allora. E evidentemente hai dio i rivelatori andati e non segna bene. Prima la pomoscala, un altro quello che ci avevo me la so, perché l'ha crepato mio padre, se porta l'ha crepato, l'ha messo all'incontrario, bisogno mio, e l'ha crepato, e per quello che non funziona bene, ma è un peccato, c'è il mobile. E allora tu li cambi quei diodi rivelatori che sono, due sono, e sono di quelli trasparenti, li vedi? Sono trasparenti quei diodi e hanno un puntino nero e rosso, sono quelli lì. Sicuramente quando l'ha messa alla rovescio c'aveva la potenza e l'ha crepato per quello. Perché gli è arrivata a corrente dove non doveva arrivare. Beh, l'ha crepato per gli susi, perché non è possibile che cazzo si comporti così questa affare. Assolutamente. Non peccato, cazzo, sono tanti anni ce l'ho qua. Però l'ha crepato, grazie. Adesso non so se è qualche... come si dice... c'è qualche cosa da regolare dentro, questo non lo so. Sì, però devi sempre cambiarli quei due diodi, se no non segnerà mai bene, perché se l'ha collegata alla rovescio gli ha fatto quel danno lì. E allora quando c'è i soldi lo compro, ci provo, lo faccio a bambini a vedere, sì, non lo dico tradite, capito Natale, a cambiare. Fusaro ce li ha, sono due diodi rivelatori, poi li vedi lì nel rosmetro, lo apri e ce ne sono due di quelli. No, questo provo a aprirlo, vedo un po', dai, si può aiutare, almeno non le dono e ciccia, capito? I due diodi costano una cazzata, sono piccolini. Adesso non apro, guardo. Sono trasparenti, insomma. non puoi sbagliare, dice. Perché sono quello giusto, me lo tengo, Carlo. Sono un peccato. Sono spariti. E dove si trovano? Oh. Ah, questi qua, sì, sì, sì. E visti? Sì che li ho visti. Quelli lì devi cambiare e poi controlli a vedere come segna, se c'è da regolarlo lo regoli con l'altro, no? Chi su che segna uno deve segnare l'altro. Sì, sì, ho visto che ci sono questi due potenziometri che, cioè, che si possono regolare, c'è del cacciavettino. Sì, quelli li servono per regolare gli strumenti. Ho provato a regolarla, non si sa mai quando duca dura che cosa. E prima la misura la fai con quello che funziona, no? E vedi cosa ti segna. E dopo prova a regolarlo, magari se vedi che magari va più avanti lo torni indietro e viceversa, no? Non dubbio che siano stati toccati quelle, perché non sono neanche bruciate. Ma perché non si invadano, però. Boh. Adesso c'ho il dubbio, Natale. Se vedi che riesci a regolarlo, lascialo così. Se no li cambi io e lo regoli in base a quello che ti segna l'altro. Mi è giunto lo dubbio, mi è giunto. Ma strano che ci manca una vita, cazzo, si può toccarle. Prendere i cacciavettini da giù per fare questa prova. Cazzo, se devo aggiustarlo me lo tengo bene, è buono, lo faccio. Cazzo, quello là non l'ho più trovato, quello che funzionava, quello che andava bene. E infatti, quindi la tucca a due, devi la figura a due, due la figura a due mari. Una pomoscara. Quelli poi sono abbastanza nuovi, ho visto. Ti fa tanti cuore, non lo devi tappare. Mica a capo, lì. Lo so. Con l'angelo custode. È una scheda, non mi dà un cane, mi credo. Vabbè, gli stagi sono così. Gli tocca andare a Los Angeles e non gli fanno buttare il cammino, capito? Prova a regolarlo, a tornare indietro a vedere se torna. Se non riesci a regolarlo sono quei diodi. Sì, devo provare, un giorno devo prendere i cacciavettini da magazzino, devo trovare il diodo giusto per regolarlo. Perché la funzionalità me lo ricordo, è diverso da questo, la cosa che ho. La funzionalità me lo ricordo com'era. E va indigeno. Dite, hola. Scusi, in banda laterale pure. Cazzo, vado in banda laterale da un tedesco, Iraghe. Ma arriva così forte, ho sparato arrivato. Non sentivo la ula, Gesù. Che penso, la sera ci facciamo la bella poinè con cipolla e salsiccia e andiamo a campare. Io ce l'ho la farina di ciccio, ma non cucina bene qua, se no l'avevo fatta, l'avrei impastata stamattina e poi me l'avrei fatta stasera, ma non cucina bene, Obi. Dico chissà Breda chi mai dito. Ma cosa ti fa? Non te la cucina sopra o si brucia sotto? Sopra non me la cucina e sotto si brucia. Perché ci vuole la pietra, punto. Sì, adesso devo prendere le misure del forno e andare da quello lì a vedere se ce l'ha quella pietra per passare. Cos'è il problema? Già ce l'ha. Se non ne mettiamo una lapica, va bene lo stesso. L'importante è che non prenda troppo calore sotto, perché poi se il calore è misurato sotto, poi sopra cucina, capito? Sì, infatti. Adesso vediamo. Oh, adesso pure io adesso sono un po' incasinato, cosa? Posso comprare nulla, se no mi avrei preso. Avrei comprato il forno qua, quello adatto per fare pizza e cose. Me l'abbia fatto io in casa. Sì, infatti, chi si vorrei elettrici, Viloni? Grazie a lui. Ma non ci penso neanche. Compro proprio le pizze a gas. E anche a gas ci sono. Durante le ripetizioni. L'ha mai visto? No, io non l'ho visto dove è a gas. Però dico, ci sono anche a gas. Qua c'è la pietra sotto. E sopra perché cucina proprio bene, capito? Dentro cucina bene bene bene. Però lui guarda e comunque quindi io me la faccio a casa e non mi dà nessun problema, non mi dà problemi di niente, non mi fa male, sì, magari non è freco, rimpaccio ed è un macello, invece quando te la fai tu sei sicuro che l'hai fatto la mattina e che la sera te la stai facendo, qui ci metti l'olio buono e c'è un'altra cosa, non è come quella che compri. E comunque ho scoperto il mito di Musica. Dici croccante, ma croccante la vuoi fare croccante. Ho scoperto un trucco che mi ha detto pure niente che lo sa. Che cosa? Un goccino di olio nell'impasto ci vuole. Esce croccante, esce che non è buio. Ma ci vuole nell'impasto? Un goccino di olio di oliva, altro che no, altro che no, E tanto quando dura i mici, pone lo zunera degli, non si mice all'impasto lui. È pittina. Ma facendo un'operazione da una croccantezza che è mondiale. Quello del budizente, altro che no, Così non è buonissimo, però va bene anche nell'impasto già, cioè la teglia vuole va bene, vuole, deve essere pulitizia, non deve avere nessun problema, esce una bomba, esce buonissima, altro che no, tutti dinne, io l'ho provato, ho fatto una prova, è uscita favolosa. Sì, vabbè. Allora mi piglio la briglia, quindi madre se riesce a farla, un dice vorrà, chi c'è me un bel mano che vorrà di cagudina, un frigo. È un bell'acqua. Ma questo è l'anno. È perché ti scaldi, non ti arriva un caldo a bomba sopra. E sopra non. Goccia no, dove con quella lì. Arriva il caldo sotto, la scalda. E sopra, però sopra ti arriva il caldo e cucina, capito? Ecco, adesso vediamo, io la misura col metro e vedo quanto vuole grande. Qui è piccolo. Qui c'è Manu, è un bell'acqua. Ma è piccolino. Oh yeah, su che andiamo! Su. E beh, basta la modulazione, Natali. E vai, cosa passa? Che andava benissimo. Andava. E beh, affittendi ieri. Sì, già finito di mangiare, ho fatto questo sughetto, una bomba. Un po' di bernetti, mezzo chilo di bernetti e mezzo litro di vino bianco, ma io l'ho bevuto. Non si è andato male, no? E pure mi ha giocato le tortiglioni al ragù, mi ho fatto a pranzo. Devo mangiare, Natali, perché sono magrolino, il dottore mi ha detto di mangiare. Ma tu che mi parla di bannette? Ho mangiato. E mezzo di vino, se no si deferisce poverino, ragazzi. e deve mangiare, deve, ha ragione. Oh, sono un malumantino. Sono Magrolino del Peritto. La bilancia, quando sono andato in farmacia a pesarmi, la bilancia mi ha detto sempre che era di salire una alla volta. La bilancia la salita, si ricarda. E un grido via. Si sta di tu, si prega di salire una volta, grida che ha di lui. Con chi so travaglio che fate devi mangiare pure uno, che è pittina, se no si da caparare un uomo. No, se no ma se voi non venite a mangiare. E chi mi vuole che ti può pigliare la cosa, no? Sei fuori mano, sei. No, Manuele, lei non ti può prendere nulla, sei fuori mano. Ho capito, non ti posso? Che lì, a mangio. Se no non puoi pigliare nulla, che sei fuori mano, sei. Tu sento un ma cioè li hai attaccato Arturo? Ma cosa? Perché te ne masticchi le parole, non ti che è troppo forte, abbassa un po'. Cosa abbassi? È normale. Allora allontanati dal microfono un po', troppo vicino. Ma come prima la situazione? Tu, cazzo, cosa hai detto? Non ti puoi? E poi non c'è nessun supermercato vicino, devi mangiare in forza. Devo andare in Buti, perché siamo a concorrere, lì l'alimentare non ce ne sono. Allora, ti è fatto in macchina? Sì, è tutto campagna, va bene che ai punti ci metti 5 minuti, se già ai punti. Guarda, due lunghetti non la ciappi. Poi me lo porto a casa a mangiare, lì adesso me lo metto già nella borsa, un po' di pernetta al sugo e un panino con l'hamburger, quello me lo mangio alle 10, il panino. Ma due lunghetti, non lo so. Magari se lo potevi fare, già c'è il posto per farlo, ma non ti va, se ne va. Poi a mezzogiorno e mezza quando vanno via gli operai a mangiare, mi mangio le pernette al suo nell'ufficio mio e via andare. Su che andiamo? E cosa trovo? Scambare quello che ti tiene la roba calda. Quello? Che tiene la roba calda. Ho capito. Come ti richiama con la cuore che tiene la roba calda? Scaldabevande. Ah, ne ho scaldabevande. Te cammino che scaldabevande. E allora con la manubretta? E io non c'è corrente, fino a quando non mettono la corrente. Se non mettono la corrente già ce l'ho il fornellino, quello, la piastra. Questo quella, da bilancio. Se vuole dove posso portare anche il fornellino, quella ragazzi, ma non mi fido molto perché c'è un casino di documenti di dentro, è un casino, ma un cambiotto. Vuoi dire su cara? No, io non lo sento, non so se lo sento una carina. Mi stava bloccando lo squelch. La bomba, quando scala l'unito. Una forma. Oh, si andò a vedere. Se tutto va bene, Natali, cambio vigilanza, Se tutto va bene, settimana ci danno risposta. A me è un altro collega. Ma cappa, se è per andare in un altro posto meglio, vai dimmi da Kiwi, grazie. Troppe ore, troppo tutto, e pochi soldi. Appunto, adesso quando è facciamo il colloquio, soprattutto parliamo di soldi, prima di tutto. Quelli sono come guardia armata, non sono pochi d'altro, è tutta una cagosa. Sì, infatti. E tutta un'altra cosa, mi devono rinnovare il decreto e basta. E infatti, perché tu ce l'avevi già. A voglia se ce l'avevo già. Infatti non hai visto quello che hanno fatto a Cagliari, che hanno legato quella guardia alla sedia e hanno bruciato i miei. scherzo. Allora, ragazza, secondo me era, stava dormendo questo qua, perché mi sembra impossibile, cazzo, a non accorgersene e non avvisare subito i carabinieri. E infatti l'avete sopraffatta che era dormito di passivo. Sicuramente, sicuramente, perché cazzo hanno spaccato i vetri delle ruspe, delle pale meccaniche, hanno rubato il gasolio, hanno rubato, è arrivato un casino ridere sul piatto di capannone. E durante via della Gadria. Cazzo, la mattina l'ho trovato lì nell'ufficio legato nella sedia. Cazzo, la barabbazza. E qua. Cazzo, via. Oh, Dio mio, per carità. C'era uno, Natali, avevo chiamato un arco mio, l'avevo fatto entrare questo arco mio aprile, maggio, a maggio l'ho fatto entrare io a lavorare. E l'ho già durato 2 mesi, l'ha dormito, l'ha levato pure lo video, ma capisate se ne è. Beh, c'era dormito. Lui gli ha detto, ma scusa, lì l'hanno preso a lingua, no? Ha detto, ma lì quando fa servizio dorme o... Oh? No, no, io non dormo. Figarito, e questo chi è? Cazzo Svaghelli. Cazzo, ha durato 2 mesi se l'ha detto tu. Sta c'è parlare di drumi che ci fai nel burro un video. Sì. Allora detto, ascolta lì, no, non è idoneo di fare questo lavoro qua. Mi dispiace, la dobbiamo licenziare, non glielo rinnoviamo il contatto. È un grillo, che ce l'ha capato di drumito. Uia, per carità, è bello che le figure di merda le ho passate, ce le ho fatte io perché ho fatto entrare io. Sì, vabbè, fino a un certo punto tu come facevi a sapere che questo si addormentava di servizio? Per me davanti a lì, lo sai cos'è? Ma non era neanche intelligente. Cazzo, andava a dirlo pure. No, tanto io faccio la notte, tanto io mi addormento fino alle 5:30. Ah, puro! Cazzo, gli è entrato all'orecchio, oh, al capozona, così, fa una cosa, vai a casa tua, vai. E beh, mi pare ovvio. Allora con voi non puoi fare... Non puoi fare come vuoi tu, lì devi lavorare tu. Devi lavorare, devi essere serio quando fare cose così. Allora, e adesso ti dico una cosa, è normale che ti si calano gli occhi, è normale, perché sei stanco. Quando smonti, riprendi, torna dopo 6 ore, 7 ore di servizio, è normale che durante la notte, verso le 2, le 3, ti si mette nella torre. Ma questo cazzo si ammassava proprio il sedile, da lì. Proprio lo ammassava fino a giù, e lo sai cazzo vedeva, non vedeva niente, questo dormiva proprio. Sono i raffutia, non hai compreso, che erano di chi ti me ne freghisti. Ma se è passato cazzo il capo, è passato quello dei lavori che controllavo, ogni tanto passava a vedere. Cazzo l'ha trovata addormentato, gliel'ha detto al capo zona, l'ha detto, ah così è. Da lì l'ha preso l'occhio, ha fatto lavorare un mese e tanto ore e poi ce l'ha mandato via. La ragazza ha durato 2 mesi e mezzo. Ma non va bene così, non va bene, non era per lui quel lavoro lì. A voi fate un gommista e fai. Io quando lavoravo faccio i turni di notte con le guardie ambientali. Cosa facevo? Io stavo sempre dietro la mano, poi c'è mi coprivo bene, io stavo sempre in bassigente, sempre in bassigente. E poi c'è un collega mio, con la malattia, rabbia la macchina e ci si dormiva in chiwi. Cioè, però, se sentiva una cosa, cioè, doveva guardare dietro lui, io davanti. Però, subito, di diretto. Però è stato il motivo per Mario, loro facevano sempre gli inerti, se non mette la mocca, mette la mocca, un piatto d'Italia, appoggiava il kiwi dove c'è anche della cavalcata. Sempre girando in chiesa, sempre girando. Ma non è che devi stare girando ogni due minuti, ogni ora puoi fare l'ispezione, ma devi assecitarlo, devi essere sveglio, no, a certo punto, ma sta scherzando. Certo, secondo Gaetta, certo, delle volami, bobine, bobine di rame, sono le sue dinamiche. Dove sono io? Ma lo sai di dire che mi sono io? Ui, lascia perdere. Che ci sono pannelli autovoltaico, ma di là, mesi e malevari mi sono. Sempre la zinca di chi mi fa delle mazzia. Senza la zinca di fatta camera centrale, tu non ti puoi neanche intromettere. Camera centrale, tu prendi e te ne vai. E cosa non so, qui a pulirmi mezzo, ma che si deve fare inculare loro. Carabinieri, chiamo. Centrale. Sì, sì. Chiamo la centrale, vengono subito. C'è la radio, c'è di notte. Cosa è dato il radio? Il telefono lui, ma adesso usa il radio. Lui ha, per carità. Sono pericoloso anche tu, lascia perdere che a Milano, me l'ho vista brutta io a Milano, era il giorno dell'ultimo dell'anno, cazzo ti vedo questo qua nella cascina, facevo servizio nella villa di un conte, ti vedo questo qui cazzo vende un Eva, in accappatoio ci abbatte con un altro tipo. Ma che è di cazzo andare? Ascolta, chi è lì? Chi è lì? Chi è lì? E non ripulia io. Alla fine, cazzo, mi dico con la misura, perché pensavo che era qualcuno, cazzo, anche tussico, qualcuno di... Perché lì avevano rubato roba di quadri di valore, quindi era roba da volare io. Cazzo, alla fine poi ci siamo scontrati, cazzo, se erano i parenti, l'uno con l'altro. Ma conclude a poco. Allora, questo ma vai, che ma vai, Perché ci prendi la gamba? Sei male di tira. Lì devi stare attento, non è così, no? Per quello che ti dico io, la gavetta l'ho fatta, e come sono fatta la gavetta? E so come funziona questo lavoro qua. Ma non riesci a tirarlo? No, poi alla fine il cazzo ha visto il distintivo, gli ho fatto vedere il cazzo, pensavo che era un ladro che stava lì girando a prendere il materiale che c'aveva lì, no, cazzo mi andiamo a Villa di la Madonna, e io ero con la macchina mia in borghese, non ero con quella della vigilanza il giorno, e cazzo vedeva questa macchina qua, pensava che era qualche ladro che stava tentando di rubare qualcosa, cazzo alla fine mi dice che ho parlato da una macchina. Alla fine ha visto la divisa, il distintivo e tutto quanto, poi ci siamo messi d'accordo. Alla fine dopo mi dava anche l'alloggio per stare dentro al caldo. Va via tutto, televisione, ritmo, tutto quanto va via. Prima mi siete imparati, da poi mi siete voluti bene. Poi alla fine ci siamo, il cazzo mi voleva bene, sì. Alla fine fa cazzo quando mi vedeva, dai, dai, beviti il caffè qui, là, una grappa, cazzo mi avrei durati, uia, io metto l'acqua a vite, dai. È andata bene, poteva partire qualche proiettile sbagliato, e ti c'è abitato. Ma lo sai cos'è lo sbaglio? Perché il capozona non ha avvisato a lui, al padrone della villa, che metteva la guardia. Lui pensava che era qualche ladro, capito? Se lui, a lui lo avvisava che veniva la guardia, allora sapeva già che eravamo noi. Invece no, lui pensava che era qualche ladro, cazzo, è normale che uno si pensa quello che vuole, che sia qualche ladro che sta cercando di rubare qualcosa. E poi ero con la macchina mia in borghese, figurati, ancora bigio. Allora, come puoi dirci? Mi raccomando che non stai tirando, non stai tirando lo sportello. Sui, non si vedeva il cazzo a tu, non si vedeva una mazza, stava facendo un'acqua, non si vedeva un cazzo. Cazzo, ho visto solo a questi due, a questo qui, l'accappatoio e un altro vicino a lui. Cazzo, c'è di cazzo a dire? Alla fine poi parlano, capite che era il padrone. E ci siamo calmati. Cazzo, Fabio mi ha vissuto, Edo. Mi sono quelli che aveva rispetto alle calaga, quella tamburo, con la canna lunga. Cazzo mi ha vissuto. Tu, vabbè che con la mia già non sbagliavi, cazzo sparavo con la mia, le facevo un buco, cazzo, che ci passava, polifemo ci passava in mezzo. Sì, ma se ti sparava con chi si adattava di mettere a terra? Sì, lo so, Natale, lo so, una bella pistola che è quella lì, cazzo ne ha ganne va via. Ehi, quella lì, più di due tamburi non puoi sparare, perché sennò ti operano al polso. Capito? C'era una 44 Magnum sempre, perché poi ci sono le 357 lunghe così, lo stesso. Però ne so fuochi buruvissi. Ah, mi sembra che c'aveva la 44 Magnum, quella con la canna lunga, cazzo bella, tutta cromata era. Allora sai così ragazza, una 357 Magnum stesso, chissà che andi pari di rimoreggia la terra. E vabbè, poi già ci siamo messi, già ci siamo arrangiati, cazzo, ma allora l'ha giovato, l'indomani l'ha giovato l'ungura, lunga posona, l'ingagliare in buio, guida, cazzo non ti permettere più a mandarmi, se non avvisi ai proprietari, cazzo, da lì non v'è più aiuta di minuta. E lo credo. Cazzo giumai mi dire Aghito, non hai compreso? Ah no, l'ho già fatto un cassettone, non mi sa più, guarda agli altri guardie, a me non mi dire più nulla di andare a fare servizio senza avvisare a nessuno. A chi si va, se mi avuto che andate di pacco un gambo. Ma un rido, cazzo, l'avevi detto. Cagliarità di merda, c'era lui e il padre. Pezzi di merda erano tutti e due, non ribugnusi un po' cazzo. Ti avrà fatta apposta che sei disastri. E manco non dire amici. Ehi, ma si è attaccato male. Dal giorno non mi ha detto più nulla. Dalla riti la madrito, vedo. Sì, ma riconvini a lui. Per carità, cazzo, che gente. Vedo che era travagliente nel rugoso di loro, Manuè. Chi la viene con tu voi? Ah, no. Quando faccio il travaglio? No? C'è da avere paura, di avere quattro cibura da riso, deve stare molto attento. Mi guarda a fare un po' attenti, potremmo andare male, potremmo anche, se ti pigliava lo sportello a me, ti potremmo anche uccidere, è andato un po' bene. No, io ero uscito dalla macchina, sono sceso dalla macchina, non ero dentro la macchina, sono sceso dalla macchina. Sono andato verso di lui, gli ho puntato la pila in faccia, gli ho detto chi sì, roba di tre volte, alla fine dopo mi ha detto sono il padrone della villa, sono il conte della villa. Dopo da lì lui non ci credeva che io gli ho detto sono la guardia, mi hanno mandato la guardia, il capozona, e mi hanno mandato qui a fare servizio la notte. Non ci voleva credere, dopo alla fine gli ho puntato la pila alla divisa, gli ho fatto vedere il tesserino, cazzo le ha fatto un gazzettone per domani a Luca Pozzona. Ma ha fatto buona, è successa una sparatoria. Appunto, per le cazzate di lui, e meno male che non è successo niente. Io non so cosa cazzo della giustizia, se l'hanno imparato uno con l'altro. È brutta la sparatoria. Ma presente c'era in altre quelle ville dell'orrore che c'aveva i tischi, quelle statue, così era quella villa lì. Cazzo, magari a me mi doveva orrore, lui è attento di cazzo camminavi, perché c'era anche c'era là quello che ti segna il perimetro che suona l'allarme? Sì, i sensori di movimento sono quelli. Ma sto gasicuro suonava, ma lo sai perché? Perché c'aveva il cazzo gli animali, ogni assicuro, ma figli di vedere il culo, cazzo alla fine, bisogna cambiare da controllare. E tu, magari basta un cane, una iatta, cazzo suona. No, questo c'aveva l'animale, c'aveva queste galline in giro la campagna, ma roba di gatti, cani c'aveva. Cazzo, la campagna era mala, era. Dovevi girare per forza con la macchina. Sono mala macchina. Mi ha passato, cazzo, tu lascia perdere, lui. Lascia perdere. E poi quando va tutto bene, va tutto bene, quando ci sono queste situazioni non è bellissima la situazione. Questi servizi che faccio adesso qua sono cazzate, perché sono cazzate. Cazzo, se li vasiani, se li vasiani che dà, si cagava in nato. Cazzo, giù bottina ti proiettile, e dite che dà, cazzo non me la vasi manca buvi per la macchia. Tutto quello lo devi portare sempre addosso, perché se ti succedeva qualcosa non ti pagava l'azienda, lo devi portare sempre addosso, specialmente quando facevo la manca lo stesso, quello lo devi portare subito, quando smontavi dalla macchina ti dovevi mettere subito il giubbottino. Allora come se io mi guardavo con un musico che sa la pompa, l'ho visto pure. Quelli ce l'avevo anche io quando facevo il blindato, quelli sì. E voi di rubricchio mi laggio io. Come andata? Ma noi. Ma sì, una blindata a balla, cazzo, sino a pallettoni. Cazzo. Cazzo, lavoro uno, vai. Cazzo. La giocava a pure un riduttore, perché lo io lo uso come sportivo, no? E quindi mi ha tolto il riduttore, c'ha tutti i colpi. Ui, cazzo, quelli sono belli. Lui faceva, io ho fatto il blindato, l'ho fatto per un paio di giorni. E c'avevamo questi qua, il calasmico, quello a mezza manica, si poteva, c'aveva il manico del calcio del fucile e la canna sarà stata, ragazzi, ti posso dire, 30-40 centimetri di canna. E 50 centimetri sono le canne, è come una lupara, no? Quello lì quando spari ti mi rampa il braccio, se non rimbracci bene, perché quello lì non è a recupero di casa né niente, tutto dalla canna esce, cazzo, fa un danno quello, tremendo. E anche non lo so, è già lo so, sì. Cos'è, Artù? Artù, trattato l'hai visto? Quelli te le davano loro quando facevi i blindati, sì. Ma adesso abbiamo un brattato, abbiamo un burro a tirarle. No, devi stare attento come spari, perché te ne butta la spalla pure. Cazzo, a 50 metri mio tirato a palla, cazzo, da una potenza micidiale. Se li lì te ne staccano la testa, te ne staccano, se lì ti spostano da un metro da terra, ti spostano. E perché, come diceva una lupara, perché c'è la canna corta. Se spari a pallettini fa un danno tremendo. Siamo orgogliosi, insomma, che... Perché cazzo ci ha preso subito la rosata, è un cazzo chi sbaglia, eh. Con quello cazzo, se spari a pallettini fai un danno tremendo, perché c'ha la canna corta e in più non ha trottature né niente. Quello lì, quello sapri subito la rosa, dei ballettoni. Sono belli quei carasmi, sono belli, sì. Io portavo col coso che avevo io, col porto d'armi che avevamo noi, potevamo usare sia quello e altre tre pistole a piacimento. Sì, già lo so. Allora sai che hanno liberalizzato il parabellum. Infatti non te ne comprare 9x21, che dopo scala di valore. Della 9 per 19. La, adesso non è più arma da guerra, quindi la possono portare tutti, come quella della polizia e dei carabinieri, uguale. Infatti non so se comprarmi una canna oppure comprarmi la pistola nuova. Io se la prendo la prendo leggera, cazzo, quella che c'avevo prima, 9 per 21 della Beretta, era troppo pesante. Troppo pesante, se la prendo la prendo leggera, quella la quadrifoglio, l'altra, la Glock, quella che come quella che c'aveva mia era bella lo stesso, solo che anche quella già è pesante. La Glock prendi 9 per 19, che è leggerissima, ti faccio vedere la mia è 9 per 21, perché quando l'ho presa io non si poteva usare il 9 Sarabello, capito? Invece adesso sì, così possono venire quelli di fuori a fare le gare, capito? Prima non potevano venire perché il 9 per 19 era vietato in Italia. Il calibro 9 per 21 ce l'hanno fatto gli israeliani a noi. No, già sono bene, adesso vediamo un po'. Vediamo un po'. Ma tu rinnovato te li hai sempre di cose, di permessi? Sì, io l'ho rinnovato da poco il porto d'armi. Ah, sai pagato? Non mi rammento. Però voi vi fate ne pagati manco. Tanto tu ce l'avevi già il porto d'arma, quindi non devi fare maneggio delle armi, perché l'hai già fatto, se no dovevi fare anche quello, io su questa 125 euro, però non devi fare perché tu l'hai già fatto, avendo il porto d'arma. A me mi deve rinnovare il decreto dalla prefettura di Milano, devono chiamare a Milano perché io lavoravo a Milano, chiamare lì e portare la prefettura di Sassari. E dopo quello la prefettura stessa penso che te lo dia il porto d'armi, perché la questura per pistola da difesa non ne dà più, lo dà la prefettura. Questo sportivo mi sembra che non te ne danno più, a quanto saputo. Sì, l'hanno data a me, come non te ne danno più? Non la puoi portare addosso la pistola, la devi portare in valigia e basta, nella valigia sua. Però non è che te la puoi portare addosso, no? Se no è porto d'armi abusivo. No, nel senso, te la danno sì, uso sportivo, però prima di dartelo ti fanno fare le visite, se sei normale, se sei idoneo a usare la pistola, capito la cos'è? Si sei mancanti. Io non le ho fatte le visite, sempre io le ho fatte le visite. Devi fare un certificato dal tuo medico e poi quello dell'USL ci vuole. Sono due certificati medici in bollo. Sì, quello sì. Anche prima di darti anni così senza la visita né nulla, ma ti devi fare visite a capo e tutto lo dico. No, a me me le hanno sempre fatte fare le visite. Chi l'ha detto che lo davano così senza visite? Non è possibile. Vent'anni fa a me, quando ero in vigilanza, mi ha detto che andavano lì senza fare visite né niente. E la gente, cazzo, vola di capo, migliavano i bicchieri, senza cazzo fare visite né nulla, in Almeria, Poi ti hanno detto una cazzata, perché io altro che 20 anni ce l'ho il porto d'armi. E mi hanno fatto fare sempre le visite, anche quando avevo quello da caccia. Addirittura quello l'ho versato in questura perché dice che due porto d'armi non li potevo avere. Io ragazzi, ma solo. E vabbè, ero bociudai, ma questi ragazzi. Tanto è accaduto, cosa cazzo me ne importa. Mi ho fatto la fotocopia perché se voglio lo richiedo torno e me lo danno. Però io a caccia non ci vado e l'ho versato. Per me la disabilità. Non è vero, le visite te le fanno fare sempre. Altro che 20 anni ce l'ho il porto d'armi io. Sì, già me lo ricordo, cazzo invasi di cartucci, buro. Già me lo ricordo che ti facevi le cartucce e pure le campane, già me lo ricordo, a voglia. Cazzo io lavoravo a Milano, quando stavi lì in campagna, tu, pensa tu, cantami va. Sì, ma ti hanno detto una balla, a me me li hanno fatti sempre fare le visite e tutto. Prima devi andare dal tuo medico a farti fare il certificato anamnestico, mi dici sei macacabu, se sei drogato, se sei alcolizzato, e vi lo devi primare, dottore, mi ci vuole la firma tua, in modo che quello che dichiara il dottore sia firmato da te. Poi devi andare con quello all'USL e lì devi versare quel certificato e ti fanno un'altra visita. Ti fanno nella visita in chimi e da poi ti dici chi su chi devi versare in questura. Quello è in mollo. Sì. E noi l'abbiamo fatta una settimana fa la visita. Visita del sangue, visita dell'elettrocardiogramma l'avevo fatto per il lavoro. Vabbè, quella è una visita del lavoro, però per il porto d'arma ti fanno fare la visita tipo quella della patente, ti fanno fare. Però intanto c'hanno già l'altro certificato del medico di famiglia tuo, che non può dire bale perché glielo devi firmare tu, se no non te ne dà. E ti ruba Ziburu paga 60 euro. Che ti va se ne parli di gratis, se non ti va se ne nulla. Ogni cosa che fai paghi. Ma quello dico, quello per il porto d'arme, quello te lo fanno pagare 60 euro il medico il tuo, di famiglia. E poi devi pagare Ghidu, devi pagare Ghidu che ti dà il medico dell'USL. Capito? E in più devi comprare anche una marca da bollo da mettere su quel certificato che devi consegnare in questura. Perché quello del medico tuo se lo tiene quello dell'USL, il certificato. E già lo so, se lo sono andato, hanno fatto tutto loro, abbiamo fatto tutto ed. Altro ci sei ancora, stai dormendo. Proprio bugiardo che dormendo. Ah, fate anche tu porto l'armi, fai lo sceriffo. Ho bisogno di un po' di tempo qua, però la razza, guarda. Non devi avere denunce in me, non devi avere, se vuoi mostrarlo. Non devi avere denunce. Sì, non devi avere denunce, ti guardano anche la terza generazione, se sono delinquente o che cosa. A me mi hanno guardato la terza generazione, penso a tutti. Sì, anche i figli del di dietro, scusando la frase, ti controllano. Ti credi rogiani così? Grazie di tanto che guarda la terza generazione. Poi specialmente per quel lavoro tuo, controllano tutto. Infatti sono più lunghe le indagini che fanno. Ci va un ispettore in tribunale e controlla tutto. Dalla parte fanno bene, perché fanno bene. Cioè, comunque conosco gente che è stata anche dentro Natali da Ciapperdere, che il porto d'arme gliel'hanno fatta avere. Ma se è stato dentro mi sembra un po' impossibile, perché ci va un ispettore della questura in tribunale a controllare cose che non fanno vedere a te, a lui gliele fanno vedere per forza. Eppure il porto d'arme gliel'hanno fatta avere. Ha avuto anche denunce per furto, qualcosa, eppure ha conosciuto gente che la campagna ormai l'Italia è così. Ma dopo la roba da matti. È così, roba da matti, è purtroppo così. C'hai denunce, cose, se conosci qualcuno dal portiere di rubare la vita. Che c'è corruzione, ma cosa tu non devi capire questa cosa, se sei così. Corruzione per. Ma mi pare un po' impossibile, perché sono severissimi su queste cose. Semplicemente. Ma cosa vuol dire severi? Con amore. Con me mesi il virus su quelle cose. A mio fratello, per esempio, gli hanno rifiutato in una volta per comprarsi una carabina aria compressa. Rifiutato Virani. A Giumari buono rimane in nato l'ispettore Belfiore, Angelo. A chi la di tu? Chi, sì, la, si offende, no? A chi le vanno in venda? Città. Non lo sai come te, Angelo. Che impulsivo. E la ditta l'ispettore si viaggia a Ribisoni in campagna.